Italia in controluce. Buon pomeriggio a tutti da Daniele Biacchesi, quella che va ad iniziare la seconda puntata di Italia in controluce, il programma in due edizioni di Radio 24 che esplora la società italiana. Questo è un programma che racconta la cronaca, la politica, lo spettacolo, il costume, tante storie che naturalmente sono girate nel nostro paese. È la terza tappa del viaggio d'Italia in controluce verso le prossime amministrative 2012. Oggi è la volta di Sesto San Giovanni. Se chiudi gli occhi lei lo sa, stella di periferia, Anna con le amiche, Anna che vorrebbe andar via. 80.000 abitanti, periferia nord di Milano, un percorso di riutilizzo delle fabbriche che fecero la storia del territorio e dell'economia milanese. Sesto San Giovanni non è una città qualsiasi per la sinistra italiana, è una delle poche realtà del nord a non avere mai avuto un sindaco di centrodestra. Se chiude gli occhi lui lo sa, lupo di periferia. La chiamavano la Stalingrado d'Italia. Aveva fabbriche come Falck, Magneti Marelli, Ercole Marelli, Pirelli e migliaia di operai. Era una città in cui era più facile incrociare moltitudine di uomini in tuta blu, a cavallo di una bici, che non uomini in cravatta. Era il luogo raccontato da registi e scrittori. Quando nel 71 uscì La classe operaia va in paradiso, era quel tessuto che si voleva raccontare, fatto di tensioni e bisogni quasi disperati. Lo studente lì fuori ha detto che noi entriamo qui dentro di giorno, quando è buio, e usciamo di sera quando è buio. Ma che vita è la nostra? Questo pro forma. Allora io dico, cioè che ci siamo, perché non lo raddoppiamo questo cottimo? Eh? Così la vogliamo anche la domenica. Magari veniamo qui dentro anche di notte. Anzi, magari portiamo dentro anche i bambini, le donne. I bambini li sbattiamo sotto a lavorare. Le donne ci sbattono noi un panino in bocca e noi via che andiamo avanti senza staccare. Avanti, avanti, avanti, avanti per queste 4 lire vigliacche fino alla morte. Erano anni di fermento sociale. Paradossalmente, in un contesto di estrema crisi, anche questi sono anni di fermento per Sesto San Giovanni. Con la chiusura o la dislocazione dei grandi poli industriali all'estero, è diventata una delle cittadelle del terziario. L'area dove sorgeva la Falck è la più grande zona dismessa d'Europa e il sindaco in carica, Giorgio Oldrini, ha puntato molto sulla riqualificazione. Il nodo di questa storia potrebbe passare anche da qui, ma procediamo con ordine. A Sesto, oggi, vivono moltissimi impiegati. Sono forse i figli di quegli operai migrati dal sud Italia al nord. E poi ci sono molti stranieri che lavorano a Milano e vivono a Sesto perché gli affitti e le case in generale costano un po' meno. Politicamente, la situazione di Sesto è molto interessante da osservare, soprattutto ora che ci si appresta ad entrare in campagna elettorale per rinnovare il sindaco. Sulla scelta pesa la vicenda di Penati. I magistrati stanno tuttora indagando su un presunto giro di tangenti in cambio di generose concessioni edilizie, raccontarono così i telegiornali nazionali. Indagato dalla procura di Monza, l'ex presidente della provincia di Milano, Filippo Penati, l'esponente del Partito Democratico, è accusato di aver ricevuto tangenti tra il 2001 e il 2002 per la bonifica delle ex acciaierie Falck di Sesto San Giovanni. Indagate anche altre 15 persone. La carriera di Penati comincia proprio a Sesto San Giovanni. Ad accusare Penati è l'imprenditore Piero Di Caterina, che dice di aver pagato profumate tangenti per la riqualificazione delle aree ex Falck e Marelli. Mirko Maietta è il responsabile del Partito Democratico di Sesto San Giovanni. Beh, il nostro elettorato, diciamo che ha percepito la gravità comunque di tutta la vicenda giudiziaria, non l'ha minimizzata, e dopo una prima reazione comunque di orgoglio, di difesa degli interessi della città, ha preso, diciamo, noi abbiamo davanti un grande impegno per le amministrative e quindi c'è stata una risposta in positivo, cioè come molta più attenzione in questo momento a concentrarsi sui problemi della città, sui temi di una partecipazione anche molto vera, cioè l'idea di fare un programma condividendolo con i cittadini, c'è uno scatto, diciamo, nei modi di fare politica, ecco, nostri. Una cosa che stiamo imparando da quell'esperienza è che gli elettori del PD si sentono parte del partito e stanno, cioè il 30% di milanesi che hanno votato per il Partito Democratico si sentono parte del partito, tanto quanto i dirigenti, i militanti, gli iscritti. E questo, per esempio, il passaggio, sta a noi trovare la maniera di anche gli spazi, i tempi, i modi di parlare, di comunicare per farli davvero entrare nel partito nel senso più pieno. Dunque, è la partecipazione, l'apertura di tavoli di lavoro che coinvolgano i cittadini e una campagna elettorale capillare fatta di incontri che ha portato Monica Chittò, 49 anni, assessore uscente alla cultura della Giunta Oldrini, a vincere a fine gennaio le primarie per il PD. Il PDL, che corre assieme alla Lega a Sesto, ancora non ha presentato il proprio candidato. Lo farà a breve. Il nome è importante in questo caso perché potrebbe essere la prima volta nella storia di Sesto che un candidato di centrodestra porta a casa un successo. Come se ci ne esiste pa. Eri passi a tutte. Il PDL, infatti, sta puntando molto su temi che scricchiolano: integrazione, costruzione di una moschea, i due argomenti di punta. Certo, il respiro non è lungo, ma è sicuramente alla portata di tutti. La moschea, che dovrebbe sorgere a Sesto, è uno dei cavalli di battaglia della Lega, che non la vuole. Il comune in carica, invece, avrebbe già deciso: la moschea si farà nel quartiere Restellone, quasi al confine con Monza. La decisione finale il 5 marzo. Antonio La Miranda è capogruppo del PDL nel Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni e sta seguendo molto da vicino la campagna elettorale. Ecco cosa ci racconta. I temi principali sono sicuramente, adesso è tornato in questi giorni prorompente il problema moschea, quindi la proposta che c'è stata di giorni scorsi di fare una grossa moschea del nord Milano sicuramente sarà uno dei temi centrali della campagna elettorale, su cui il PDL già da tempo ha espresso la propria contrarietà. Quindi voi cosa proponete in alternativa? L'individuazione di un sito da un certo punto di vista per consentire l'aggregazione della comunità attuale di Via Tasso, che è una componente di circa 300 unità, non di più, che già si trova in Via Tasso. Un locale migliore che non crei tensione. Da questo a passare a fare addirittura una moschea, come stanno proponendo proprio un progetto, ecco, questo ce ne passa. Ecco. Poi sicuramente in generale il tema della sicurezza, dove noi prevediamo sicuramente un potenziamento della polizia locale. Non abbiamo mai abbandonato l'ipotesi di avere un presidio anche dell'esercito, che più volte abbiamo invocato, quindi in ausilio alle pattuglie che già girano e controllano il territorio. Non ho capito bene perché c'è questa, il secondo tema, diciamo, portato dal PDL è sulla sicurezza, addirittura l'intervento dell'esercito su un'area. Perché comunque è un'area a forte tensione a Sesto, ci sono stati diversi episodi di microcriminalità che denotano una situazione di necessità di maggior presidio del territorio. Poi contro ogni speranza, perché storicamente Sesto è sempre stata appunto rossa, quindi sempre a sinistra, avete cominciato a erodere un po' questo capitale, perché nel corso delle passate elezioni c'è stato proprio un orientamento da parte dei sestesi verso il PDL. Sì. Dopo quello che è successo anche all'interno del PDL, quindi insomma tutte le cose legate a Berlusconi, il fatto che Berlusconi stesso non sia leader, eccetera, pensate di poter avere qualche carta in più, diciamo, da giocarvi? Cioè, pensate di poter arrivare addirittura a governarla questa città? Sicuramente noi scendiamo in campo questa volta decisi e convinti anche di potercela fare. Era Italia in controluce, torniamo domani alle 6.30 con un nuovo reportage sulle amministrative. Domani saremo a Genova, sempre con Cristina Cappinelli.